canoppio con Clarice. Dobbiamo pranzare assieme. E poiché il vecchio in città se n'è andato, voglio in oggi goder per lo passato. Il padron vuol che ascolti e che ricordi, or or lo servirò. Asinaccio, che fai? Per asinaccio non risposi mai. Levati su di qua, brutto bestione. Lei sappia che mi chiamo il bel Mingone. Oh, questa è bella fe. Da ridere che c'è.